Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da luglio a settembre del 1847. Insurrezioni a Messina e Reggio Calabria, Milano morto negli scontri con la polizia. Il telegrafo arriva in Italia, ora c'è una linea tra Pisa e Livorno. La stranezza, dall'Inghilterra nasce l'associazione per chi non mangia la carne. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione, ancora le tensioni politiche nella penisola, in particolare al sud. Questa volta è toccato a Reggio e Messina. Le due città dello stretto sono state protagoniste tra la fine di agosto e i primi di settembre di moti di ispirazione patriottica mazziniana. Moti che sono stati duramente repressi, ma che testimoniano ancora una volta la presenza di idee progressiste e di aspirazioni rivoluzionarie che forse sarebbe ingenuo considerare esaurite. I fatti di Messina sono del primo settembre. Qui, approfittando di una festa, i promotori dell'insurrezione hanno tentato il colpo in anticipo da soli. Giovanni Nesce, Antonio Cagliaferro, Antonio Pracanica sono stati però sconfitti nel giro di poche ore. Il giorno dopo, il 2 settembre, è toccato a Reggio Calabria. Qui la rivolta ordita, tra gli altri, da Domenico Romeo insieme al fratello Gianandrea è riuscita a saldare l'insurrezione di alcune centinaia di montanari di Santo Stefano e dei comuni vicini con l'appoggio del popolo reggino. Ne è nato un governo provvisorio con tanto di bandiera tricolore, ma l'invio di nuove truppe borboniche da Messina a Reggio ha chiuso il cerchio sugli insorti. I capi si sono rifugiati in Aspromonte, ma sono stati presi. E la testa di Domenico Romeo, decapitato dopo la morte, è stata esposta per due giorni nella gendarmeria di Reggio. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E i milanesi hanno deciso di trasformare l'arrivo del nuovo arcivescovo, un italiano, Bartolomeo Romilli, in un'occasione per contestare gli austriaci. Ci sono stati scontri, un morto, alcuni feriti. Il podestà Gabrio Casati ha protestato col governatore. Fatto sta che durante la festa, e da qua è partito tutto, un gruppo di giovani ha cantato l'inno a Pio IX. Su musica di Gaetano Magazzari e parole di Filippo Meucci si sta ampiamente diffondendo in tutta Italia. Eccone un brano. Nelle precedenti edizioni del Gazzettino vi avevamo raccontato di questa innovazione chiamata telegrafo, arrivata e sperimentata negli Stati Uniti. Ebbene, questa innovazione è arrivata anche nella penisola italiana. Una linea adesso corre tra Pisa e Livorno. A sperimentarla è stato uno scienziato forlivese, Carlo Matteucci, che proprio a Pisa ha fondato un giornale, Il Cimento, che si occupa di chimica e fisica. In chiusura andiamo in Gran Bretagna, da dove ancora una volta ci arriva una notizia curiosa. Un gruppo di persone, tra cui un rispettabile membro del Parlamento, ha costituito una nuova associazione destinata a raccogliere tutti coloro che hanno scelto di non mangiare la carne, ma solamente verdure. Si chiamerà Vegetarian Society. È tutto sul nostro sito, potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento, fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. Come sempre l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.